ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. A ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Pedalo, non ti fermo mai su, corro, tremo e poi gira, giro, gira, gira, giro, gira, ci soffro la salita e poi lancio la discesa che gira, giro, gira, gira, giro, gira, gira, giro. Buon pomeriggio, buona domenica sulle strade negli stessi giorni del Giro d'Italia, ma in e-road bike, bici da corsa pedalata assistite. È partito il 4 ottobre da Caltanissetta, si conclude il 25 ottobre a Milano. Il Giro è evento cicloturistico riservato ad amatori ed ex professionisti per vivere le emozioni della corsa rosa. 20 tappe, solo una in meno del Giro, con un dislivello di circa 25.000 metri. A raccontarcelo un ex campione, Gilberto Simoni, detto Gibo, due volte maglia rosa, capitano del team Fondazione Michele Scarponi. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti. Allora, Gilberto Simoni, prima volta in e-bike, come ci si sente ad essere aiutati da un motore elettrico e come ci si sente a ripercorrere le strade del Giro nelle stesse giornate del Giro? Giro d'Italia è per rivivere un po' le emozioni sulle strade del Giro e sicuramente per un appassionato e anche per un ex ciclista e comprendo e capisco che anch'io rivivo quelle emozioni, posso vivere anch'io quelle emozioni, anche se le ho già vissute in una forma competitiva, ma qui si respira l'aria di Giro, di quella festa rosa che accomuna un po' tutta l'Italia. Qui siamo con delle bici elettriche, un po' anche per promuovere la viabilità sostenibile, quindi un po' più di sicurezza sulle strade, assieme alla Fondazione Michele Scarponi, quindi insomma è un insieme di tante cose che cerca un po' di completare il Giro d'Italia e che guarda, credo, anche al futuro, no? Perché viabilità sostenibili, bici elettriche, macchine elettriche, un po' più di aria pulita in queste città, alla fine è un punto di partenza. Mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica, poi abbraccio i miei gregari, passo in cima alla salita, perché quelli come noi hanno voglia di sognare. Io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare. Senti, ma la fatica, no, nella salita soprattutto sulle e-bike scompare del tutto oppure no? No, devo dire che in questi giorni insomma c'è un po' di gara e il motore non è che accelera sempre, a un certo punto ti aiuta, ma poi per sicurezza, soprattutto perché è un po' nata per tutti, non per i professionisti, ma a un certo punto stacca e quindi tocca a te pedalare e quel momento insomma arriva la fatica che magari non hai fatto prima, ma in realtà puoi sempre aggiustarti, insomma le salite le puoi affrontare veramente con serenità, basta tenere un po' la batteria carica e darci anche un po' del tuo, insomma non solo farsi aiutare. Insomma sì, è sempre una bicicletta. Senti, tu hai scelto di partecipare con la Fondazione Michele Scarponi, ricordiamo campione che è morto tragicamente investito da un furgone durante un allenamento il 22 aprile del 2017, una fondazione che da anni si occupa per la sicurezza stradale. Cosa significa per te appunto aver partecipato con questo team, cosa si può fare per promuovere le strade più sicure per i ciclisti? Sì, Michele era un ragazzo incredibile, straordinario, cioè aveva l'affetto di tutti, è morto per una disattenzione sulla strada e non è che è morto Michele, sono molti i ragazzi, i pedoni che muoiono sulla strada, non c'è più rispetto sulle strade, sarebbe bello vedere i bambini andare a scuola come una volta, come succede poi anche nei paesi nordici, non è che una volta in Italia, ma all'estero succede ancora che i bambini vanno a scuola in bicicletta, in tutta sicurezza. In Italia è una cosa improponibile, sembra veramente un altro mondo. Michele, ma soprattutto suo fratello, è rimasto scosso da questo, ha detto no, non possiamo arrenderci, dobbiamo lottare, pretendere un mondo per tutti. Noi poi ci diamo ci danno un compito perché ci coinvolgono, ma siamo le persone sbagliate, perché in realtà noi piace andare in bicicletta, vorremmo solo andare in bicicletta, ma credo che questa richiesta dovrebbe venire dai genitori che vanno in macchina, che portano i bambini a scuola, dovrebbero venire dalle scuole, dovrebbero venire anche dagli stessi bambini che vogliono una città per loro, che vogliono vivere una vita non rinchiusi in casa per paura di poter essere travolti da un'auto. Senti, quando tornerai, quando finirai questo giro, continuerai ad usare l'e-bike? Perché si dice che poi una volta provata, insomma, diventa quasi una droga, insomma, difficile tornare. Abbiamo degli ospiti, degli amici, anche qualche VIP, no? Ma credo che ne rimarranno contagiati, tra virgolette, visto che questa parola va di moda. Credo che come torneranno a casa ne ordineranno subito una. Bene, grazie mille a Gilberto Simoni, buone pedalate. Sì, buona giornata, grazie a tutti. L'eroica è la maniera di ritornare un po' giovani con delle biciclette datate, biciclette che vanno dagli anni 10 agli anni 80. Gli anni 80-90 sono stati gli anni dei miei inizi e della mia carriera, e un po' lavorare su quelle biciclette lì e ritornare un po' giovani. È l'occasione per ritrovare degli amici o degli ex corridori o persone di un ciclismo che magari non vedi più da tanti anni, riconoscere anche stranieri che arrivano. Non è una corsa, perché è un pedalare insieme, un durar fatica te e la tua bicicletta, un sistema di trovarci, di vivere, di non so se si può paragonare a un pellegrinaggio o a qualcosa che può mancare. Io in genere sono il primo ad arrivare la domenica o il lunedì mattina precedente e sono l'ultimo il lunedì sera successivo alla manifestazione ad andar via a chiudere la festa. E lui era il Carube, alias Roberto Lencioni, colonna portante dell'eroica, meccanico di grandi campioni ma anche inventore del mercato dei pezzi di bici d'epoca che di solito si tiene durante questa manifestazione ciclostorica di Gaiole in Chianti su Strade Bianche, famosa in tutto il mondo. La 24esima edizione si sarebbe dovuta tenere il 4 ottobre, è stata cancellata per Covid, anche se centinaia di ciclisti si sono ritrovati lo stesso a pedalare tra le colline del Chianti nel rispetto delle regole, una sorta di eroica autogestita. Confermata invece la nuova eroica sabato 24 e domenica 25 ottobre a Buonconvento in Toscana, evento dedicato alle bici gravel. Ne parliamo con l'organizzatore Franco Rossi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Franco, l'eroica con l'apostrofo, l'eroica quella di Gaiole in Chianti, come sappiamo quest'anno è stata purtroppo cancellata, anche se poi tanti eroici si sono comunque riversati a Gaiole, per le strade di Gaiole, anche se nel rispetto delle regole di distanziamento. Ma per la nuova eroica invece è tutto confermato, giusto? Sì, allora per nuova eroica, essendo un evento più piccolino, perché comunque abbiamo una restrizione dalle autorità a 1000 partecipanti, abbiamo tutto confermato. Diversamente da quando abbiamo aperto le iscrizioni, Nova Eroica per questo anno sarà solo, abbiamo tolto la parte agonistica, in quanto le partenze devono essere con il distanziamento, e quindi abbiamo, diciamo, opzionato per fare Nova Eroica senza la parte agonistica. Il dislivello qual è? Il percorso lungo è di 2300 metri, mentre dell'85 km è di 1500, mentre nel percorso di 62 km è esattamente di 1000 metri. Ricordiamo poi che si usa la gravel, no? Sì, diciamo che è permesso sia la bicicletta grave dal ciclocross che anche da corsa, però la bicicletta in questo momento da grave è la bicicletta più indicata, in quanto, diciamo, alla sicurezza proprio nella meccanica della bicicletta, perché ha delle ruote più grandi, frena a disco, sia anche per la comodità, e quindi la bicicletta assolutamente più indicata è la bicicletta grave. E allora, appuntamento a Buonconvento in Toscana il 24 e 25 ottobre con la nuova eroica. Noi ci fermiamo qui, grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica. Buona domenica e buon pomeriggio a tutti.